Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi e Motto, Giulio Andreotti. Come vi ho raccontato pochi minuti fa, è un politico, scrittore, giornalista, uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, è stato praticamente protagonista della vita politica italiana per tutta la seconda metà del XX secolo. È stato presidente del Consiglio 7 volte, tra cui anche il governo di solidarietà nazionale durante il rapimento di Aldo Moro nel 78-79 con l'astensione del Partito Comunista, 8 volte ministro della difesa, 5 volte ministro degli esteri, 3 volte ministro delle partecipazioni statali e poi ancora ministro delle finanze e una volta ministro del tesoro. È stato anche sempre presente nel 45 in poi nelle assemblee legislative italiane, dalla consulta nazionale dell'assemblea costituente e poi nel Parlamento italiano dal 48 come deputato e successivamente come senatore a vita. È stato anche presidente della Casa di Dante in Roma. Vogliamo farvi riascoltare un'intervista che avevo fatto e avevo realizzato alcuni anni fa, possiamo dire un'intervista a 360 gradi a Giulio Andreotti, che ripercorre tutta la sua storia, tutta la sua vita e anche con un pezzo finale che sa praticamente di presagio. Sentiamo dunque questa intervista di Radio 24 a Giulio Andreotti. Presidente Andreotti, sulla Prima Repubblica è stato detto tutto il peggio possibile, quasi fosse stata una iattura della storia italiana, però c'era un alto rispetto delle istituzioni. La Seconda Repubblica, lei la considera un passo indietro nel nostro paese in quanto a civiltà e senso delle istituzioni? Ma a me in certo senso non piace molto questo distinguere prima, seconda o terza repubblica. Comunque l'uso adesso è diventato corrente, pazienza. Ma io credo che non è che ci siano delle differenze così a curva a U. Naturalmente alcune cose sono andate in meglio, altre in peggio. Quello che a me avviso ha segnato una svolta negativa è stata l'abolizione della proporzionale. La proporzionale dava a ciascuno il suo, con quella duttilità che è propria del nostro carattere, anche direi individuale, oltre che dei partiti, era così, e consentiva magari con formule, beh, a parte quella di Moro, le convergenze parallele, ma l'appoggio esterno in attesa di un possibile appoggio interno in una coalizione. Mi sembra che avere semplificato con i due poli, linguaggio che ancora adesso rimane nonostante un minimo di correttivo di proporzionale c'è stato, crea una rigidità che non aiuta, mi sembra, e non crea nemmeno un contatto maggiore del cittadino con le istituzioni. Spererei che la celebrazione dei 60 anni porti un po' a una riconsiderazione dei valori fondamentali e specialmente del perché la Costituzione dura, perché fu messa in piedi in un clima di grande collaborazione, nonostante ci fosse stata a metà del cammino la rottura politica più forte, l'estromissione dei comunisti e socialisti dal governo, però si arrivò alla fine dell'anno con un voto che fu quasi unanime e questo ha dato delle radici, mi sembra, abbastanza profonde. Adesso c'è un po' la mania di evitare il dialogo e anche spesso di considerare l'antagonista non come un avversario ma come un nemico. Ha portato dunque quel clima teso tra il 46 e il 47 ad una Costituzione condivisa da tutti? Sì, naturalmente alcuni con grande entusiasmo su alcuni punti, altri con meno, però c'era veramente questo desiderio di trovare più i punti di convergenza che non quelli di differenziazione. Ma qual è, secondo lei, l'eredità che lascia la Costituzione ai giovani di oggi? L'eredità di un rispetto in assoluto di determinati valori, perché si possono avere momenti così di cielo un po' grigio e momenti di sole, però la Costituzione assicura che la libertà come tale non può essere mai messa in discussione. In un'intervista lei disse che il partito di De Gasperi realizzò le più precise riforme italiane, ma oggi occorre pensare a qualcosa di nuovo, non al bis dello scudo crociato. Beh, le formule politiche sono sempre transitorie. Noi, in un certo senso, come sistema siamo durati il doppio di quella che era la tradizione italiana. Giolitti ha dominato per 20 anni, il fascismo, che si chiamò addirittura un'era, è durato 20 anni, noi in fondo siamo durati 40. Quindi, a parte le manovre e le cattive azioni dall'esterno, ma forse c'era anche un logoramento fisiologico, e come tale io non credo che si possa pensare ad un ripristino di vecchie formule. Queste mi sembrano superate. Italia in controluce. Riprendiamo nuovamente il racconto e questa intervista che avevo fatto alcuni anni fa a Giulio Andreotti, ma è un'intervista importante, molto lunga, stiamo facendo sentire solo una parte, questa invece inizia con una delle storie più torbide della vicenda politica italiana. Andreotti, che cos'era la loggia massonica P2? Un'associazione di delinquenti, una lobby economica affaristica, una colita di buontemponi che girava con i compassi. Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, ed è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires, il giorno dell'insediamento di Perón, mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua. Il ricevimento non c'era, e c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone, che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui. Cioè, quindi certamente Lucio Gelli. Certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex, insomma, in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua. Perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui. Michele Sindone era veramente il finanziere di Cosa Nostra? Questo io non lo so. Vede, Sindona, quando l'ho conosciuta a Milano, alla Camera di Commercio, me lo presentò Marinotti, e non so, Adamo Smith sembrava un analfabeta in economia rispetto, era venerato da tutti. In America era alla testa della decima banca americana, in Italia ebbe dall'ambasciata americana il premio di americano dell'anno. Dopo sono fatte così conoscere delle pagine della sua storia molto complicate, i rapporti con la mafia e anche la stessa morte, questo micidiale caffè, insomma, non so chi gliel'abbia servito. Nei lunghi anni dei processi di Palermo e Perugia, Andreotti, lei ha accettato di difendersi in un tribunale dello Stato italiano, seguendo passo dopo passo ogni interrogatorio. Era proprio convinto che la Corte avrebbe creduto alla sua difesa? Ero convinto, intanto non avevo mica un'altra strada, perché avendo iniziato un procedimento penale e il procedimento penale andava portato avanti, però ero convinto del fatto che non c'entrassi niente e anche di una cosa che ringrazio Dio di averla avuta, cioè il mio diario. Io il diario ce l'ho perché subito dopo la liberazione feci amicizia con Leo Longanesi, che era snobbato dai fascisti perché lui era stato un po' contestatore, dagli antifascisti perché era stato fascista e nessuno lo filava. Feci amicizia con lui e mi consigliò di tenere un diario e dopo 6 mesi addirittura facemmo assieme un libretto, lui disegnò la copertina con certa sei voci, il primo libretto che ho scritto, e non pensavo però che mi servisse per fare libri o per fare discorsi, ma mi servisse anche per potermi difendere, ma questo mi è servito perché quando dinanzi a accuse precise, a date precise, e io potevo dimostrare che quel giorno non potevo essere in Sicilia perché ero in Giappone, il castello messo in piedi dai procuratori faceva acqua. Ogni tanto penso di scrivere un libro sui testimoni perché sono scandalosi, insomma. Poi però ho una certa allergia a ritornare a occuparmi di queste cose. Ho tutte le carte pronte, ma forse non lo farò mai. Le riporto una frase di una sua intervista dopo la soluzione di secondo grado al processo di Palermo. Lei ha detto: il tempo è galantuomo. Se fosse più veloce sarebbe meglio. Questo processo mi ha allungato la vita. Vorrei che la commentasse dopo alcuni anni. Veda, perché riflettendoci, perché non voglio assolutamente mancare di riguardo al tribunale, ma se il tribunale avesse dovuto decidere a tempi strettissimi, in quella fase nella quale la procura, direi, era di una faziosità assoluta e aveva anche una eco nella stampa estremamente compiacente, non so se il tribunale avrebbe avuto il coraggio di assolvermi, perché me l'hanno detto poi dopo, lo stesso tribunale aveva una volta assolto un personaggio. Poi quando me lo disse io l'ho confuso con un professore di diritto romano, si chiamava Ricco Boni, invece era un capo mafioso, che poi si dimostrò che era veramente invece un capo mafioso. Allora forse poteva essere esercitato qualche ricatto dalla procura nei confronti del tribunale. Questo così mi fu spiegato, io non è che ne capissi molto di Sicilia, non me l'ho mai occupato in vita mia, paese di grandissimo interesse, regione straordinaria, ma tu devi capire che cosa hanno detto quando stanno zitti, insomma, quindi ci vuole così delle doti un po' particolari. Certamente, ecco, non è che lo auguro a nessuno, però gli anni del processo mi hanno abituato anche ad un'attenzione, a una concentrazione e anche a così desiderio di lotta difensiva che forse mi ha anche irrobustito. Siamo quasi alla fine di questa intervista, Andreotti. Prego. Mancano solo alcune domande che considero anche domande importanti. Il bilancio, per esempio, di una storia italiana. Secondo lei quali sono state le rivoluzioni mancate del nostro paese? Ma forse del tutto mancate non ce ne sono state. Forse avremmo potuto con più coraggio andare avanti nella strada delle riforme, perché quelle che avevamo promesso e abbiamo mantenuto, avevamo promesso nelle elezioni del 48, la riforma agraria e la politica di avvio a una certa perequazione per il Mezzogiorno, e sono state due forti spinte. Forse avremmo dovuto credere un po' di più in noi stessi e fare qualche cosa di più, però io credo che il capolavoro di De Gasperi sia stato quello di avere una concezione molto precisa della politica estera e in modo particolare di vedere la connessione tra politica estera e politica interna. Indubbiamente questo si traduce poi in modo particolare nel Patto Atlantico. C'è qualcosa che rimpiange del sistema dei vecchi partiti? Ma Forse no, perché tutto sommato insomma, qui sono sopravvissuto e io sono arrivato alla politica per combinazione e poi ci sono rimasto. Adesso mi occupo non di politica di parte, faccio il mio lavoro al Senato, continuo a seguire la politica estera e direi sono contento perché si sono aperte e sono poi in continua necessità di aggiornarli tutta una serie di capitoli di vita, di storia che nel loro campo sono affascinanti. Andreotti, le faccio un'ultima domanda. Prego. Di quale Italia è stato testimone? Intanto di un'Italia molto cresciuta, io ricordo gli anni della fame, non solo nel momento della guerra, ma prima, insomma, se noi guardiamo i consumi dell'Italia di prima della guerra, sono quelli che oggi ci fanno classificare i paesi più disagiati come sottosviluppati. Noi eravamo un paese sottosviluppato, adesso anche se io non mi gonfio i polmoni dicendo siamo tra i grandi paesi industriali del mondo, mi pare un'enfasi forse esagerata, statisticamente valida, ma non mi entusiasma, però certamente un'Italia profondamente cambiata in meglio. Questa era una delle ultime interviste a Giulio Andreotti, un'intervista che avevo realizzato per un vecchio programma che si chiamava Storia. Giulio Andreotti, lo ricordo, è morto proprio pochi minuti fa e sono arrivati anche moltissimi sms che io non avevo chiamato, ma comunque che vi leggo. È un grandissimo protagonista della politica italiana nel bene e nel male, morti lui e Cossiga, chissà se conosceremo mai la verità su molti misteri. Ci scrive Maria Letizia al 349-238-6666. Con lui scompaiono 50 anni di segreti italiani. Speriamo ora di fare luce, dice Fabio. Professionista della politica, degno di grande stima, nulla a che vedere con gli omuncoli che bazzicano la politica attuale, imponendo la propria cialtroneria. Un'unica speranza, scrive Marina da Milano, che abbia lasciato scritte quelle verità di cui fu testimone, che i suoi silenzi in vita diventino ora eloquenti. Ne abbiamo bisogno più che mai. Se ne andato come Cossiga portando con sé tante verità che non sapremo mai, ci scrive Lidia. Ringrazio naturalmente i tecnici che ci hanno dato una mano veramente a ricomporre questa lunga intervista che in realtà abbiamo dovuto smontare in pochissimi secondi, visto che la notizia è arrivata alle 13.23, un'intervista che diciamo tra poco troverete anche sul nostro sito radio24.it. Un saluto da Daniele Biacchese.